ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Nona puntata. Xenia l'avrebbe voluta infermiera o ostetrica. Le mani che aveva, asciutte e morbide, impegnate a promuovere la vita, a dar sollievo alle sofferenze dell'umanità. Oppure musicista o artista comunque, per condividere con il popolo i propri doni. Quando Xeniuska volle iscriversi ai corsi di computisteria, la delusione per sua madre fu grande. Intavolarono discussioni spigolose. La cortesia apparente delle parole nascondeva male l'asprezza del contrasto. «Quel che puoi fare, lo devi fare», si indegnava Xenia, e sua figlia si faceva umile, negava doti e propensioni e gusti, tutta tesa alla conquista di quei piccoli agi borghesi che la madre aveva trascurato. Nel primo giorno della scuola nuova, Xeniuska per l'ennesima volta verificò l'urgenza di un cognome normale, che non imponesse come il suo specificazioni e chiarimenti. Durante la lezione di calligrafia, sulla X del suo nome le compagne si sbizzarrirono e la severità dell'insegnante non soffocò del tutto i bisbiglii fra i banchi. I libri le pesavano sulle braccia tornando a casa e le molte perplessità la facevano stanca, ma per sua madre costruì un sorriso vittorioso. Il caffè latte della cena lo mandò giù con finta fame, chiacchierando volubilmente. Vantò l'eleganza eterea delle insegnanti, che in verità aveva trovato grasse, con brutti capelli e mani volgari, odorose di cucina popolare. Xenia non commentava, la guardava attraverso il tavolo convinta delle bugie e sfinita dalla stanchezza per la vita di sempre e dall'incapacità che si sentiva di ritrovare con la figlia valori, speranze, aspirazioni. Insieme liberarono il tavolo dalle poche stoviglie. Xeniuska osservava nei gesti la fatica inutile di sua madre, trovandovi la riconferma per le scelte che stava compiendo. Non più questurini nella sua vita, pensava, né caffè latte, né valigie misteriose di cui nascondere il contenuto. Cominciò a fare i compiti diligentemente, la fronte appoggiata sulla mano, le trecce appuntate vicino alle guance, un quadro studiato di armonia che, sua madre non poteva ignorarlo, aveva diritto ad altri sfondi, altri scenari. Xenia si stringe nello scialle, respinta. Le righe del giornale le si confondono, si massaggia gli occhi e le tempie e desidera altre mani, un uomo accanto per darle certezza di qualcosa e sollievo. Xenia chiusa nelle mani che le coprono il viso. Sua figlia non sopporta quel buio e per illuminarlo le va vicino. Cancella con un abbraccio ogni possibilità che sua madre ha di immaginarsi un'altra vita, una storia diversa. Il diario di Enrico, non intimo né davvero privato eppure sincero negli obiettivi di vita che si poneva, Alfonso lo lesse dopo il funerale, quando si trovò a pensare suo figlio come una spiga di grano rigogliosa, dorata e svettante, orgogliosa di sé e dei semi che portava. Nonno è morto. Una cosa più delle altre gli invidio, la sua morte veramente simile all'eutanasia. Sogno di tutte le età. Essa mi è apparsa grande, in verità. Mai più augusto spettacolo m'apparve. Nonno moriva, ansava e sospirava. Egli soffriva. Ma dove egli volgeva gli occhi, sempre trovava facce amiche di piangenti. Egli poteva morir felice. È questo l'ultimo quadro della vita dell'uomo giusto che è ancora. Nonostante tutte le distruzioni tentatene, la più vera e sublime e reale concezione della vita. La seguirò finché su di me giunga la morte, placida, in quanto avrò fatto il mio dovere. Per primo arrivò il rabbino capo e dopo fu tutto un succedersi di personalità, bei nomi, abiti scuri e facce di circostanza, negli occhi di alcuni una scintilla di dolore vero. Contrariamente all'uso, Giuditta si concesse poche lacrime e quasi tutte in solitudine, chiusa in una stanza a guardarsi le mani, vuote per sempre della stretta che l'aveva legata a Pellegrino in un tempo lontano, quando insieme recitavano in una filodrammatica e lui così, durante una recita, si era dichiarato. Gli operai della deputazione si tenevano in disparte, silenziosi e riconoscibili, curiosi del palazzo e delle onorificenze e insieme alteri, convinti di sé e del proprio valore. L'onore della bara era chiaro per tutti, sarebbe spettato a loro. Da Pisa, con lo stesso treno ma naturalmente in altra classe, erano giunti anche l'assessore Sadun e il presidente della Camera di Commercio, Angelo Di Nola, per l'Unione Liberale Democratica, e il ragionier Sraffa in rappresentanza dell'ospedale. Attenti a non confondersi fra la folla, si schierarono con i notabili romani stretti attorno a Staderini, l'assessore che era lì in rappresentanza del sindaco. Un operaio giovane, con la barba ancora incerta, prima di caricarsi il peso si strofinò le mani, con il gesto consueto della fatica stava per sputarci sopra. Lo fermò in un incrociarsi di sguardi un altro più anziano, con la giacca di velluto e il collo forte. All'unisono si passarono le mani sui fianchi, lungo le cuciture dei calzoni e via. Giuditta per prima lasciò la casa, piena di drappi neri e specchi oscurati. Dietro di lei uscirono i figli, i generi e le nuore, i nipoti. Ermelinda, furono in molti a notarlo, in gramaglie ci guadagnava. Il nero nobilitava i suoi tratti appena troppo floridi. Alfonsa, invece, era tutta spenta. Si appoggiava al braccio della sorella senza ritegno, incapace di mostrarsi forte. Avrebbe di gran lunga preferito, come nella tradizione, restarsene in casa, al riparo di usanze nuove che solo la ragione poteva considerare buone. Giuditta calamitò attorno a sé i propri figli, i figli di Pellegrino, e insieme formarono la prima fila. Tutti gli altri dietro, non separati ma lontani comunque. Lello cercava con gli occhi Alfonsa per esserle vicino, ma lei non si voltò. Per tutto il tempo muoveva le gambe come se la trascinassero, il corpo irrigidito da un dolore senza via d'uscita. Lungo la strada il corteo si ingrossò, cappelli, tube, ma anche i berretti. A Piazza di Spagna, per l'orazione funebre, i giornali calcolarono 3.000 persone. Molte lacrime sincere furono sparse quando Staderini tesse le lodi del defunto. Molti commenti a bassa voce accompagnarono il racconto che fece delle sue fortune industriali, dalla prima fabbrica rilevata dai Nissim all'introduzione dei primi telai meccanici inglesi, fino all'ultima iniziativa che aveva avuto, quella produzione di tela per aeroplani che era parsa ai più l'ennesima stramberia di un ebreo visionario e che andava invece rivelandosi con l'avanzare della guerra l'intuizione patriottica di un grande italiano con i piedi ben piantati in terra. Schermata dalla veletta nera, pur fra le lacrime che le inondavano le guance, Ermelinda apprezzò l'equipaggio di cavalli neri, annotò mentalmente le presenze di rilievo e qualche assenza la irritò. Della morte del padre era addolorata davvero, ma insieme la annoverava fra le sofferenze inevitabili. Lo sguardo proteso al futuro le consentiva di vivere il presente con lucidità, coraggio e perfino ironia. Alfonsa era come cieca. All'entrata del cimitero il corteo si sciolse. La famiglia teneva per sé la parte religiosa della cerimonia. 9 uomini fecero cerchio attorno alla bara. Enrico, fresco di bar mitzvah, si aggiunse a loro e il gruppo fu completo. Enzo e Lea, fieri di lui, Lo seguirono con gli occhi nei canti, nei cerchi che compiva con gli altri attorno al feretro. Mimmo disperato rimase fuori, squassato dai singhiozzi e solo, irriducibile alla morte e aggrappato alla convinzione che la scienza, prima che giunga la sua ora, avrà scoperto il sistema per non morire. Come avvenne il ritorno Alfonsa non lo seppe mai. Poi per ore se ne stette sul letto, al buio, insofferente di ogni compagnia. Riapparve padrona di sé, con gli occhiali sul naso, i capelli ravviati stretti nella crocchia, pronta ad affrontare compiti e doveri. Del funerale parlò soltanto con Ermelinda e per il breve tempo necessario ad organizzare, nel nome di Pellegrino, collette e sottoscrizioni a favore di quanti lui stesso aveva già in passato beneficato. Il comitato pro soldati ciechi e mutilati, quello a favore dei tubercolotici e nevropatici, la fratellanza militari e reduci d'Africa, le società riunite di soccorso e beneficenza, gli asili infantili di carità e tanti altri istituti a Pisa e a Roma. Su insistenza di Angelo, dei denari furono devoluti anche ad istituzioni legate alla comunità israelitica, ma non grandi cifre. E solo per non scontentare, non era certo quello il terreno delle urgenze più sentite. Il tran tran quotidiano era all'apparenza quello di sempre in casa, però ai ragazzi, sotto lo sguardo ancora chiuso di Alfonsa, la voglia di giocare andava via. Studiavano, leggevano, ciondolavano, troppo quieti. Non litigavano mai e ridevano di rado, quasi di nascosto. Le solite occhiaie dell'inverno erano più profonde degli altri anni. Avevano bisogno d'aria, diceva Ermelinda, ma le domeniche a Villa Borghese si trascinavano noiose e il terrazzo, nella veste invernale di foglie secche e rami intirizziti, non riusciva ad attrarli. Lello intensificò la ginnastica che i figli facevano in palestra, comperò una spalliera più alta perché vi si esercitassero. Obbedivano puntualmente, ma quanto a metterci anche dell'entusiasmo non era proprio da parlarne, tranne Enrico, che si voleva in forma perfetta per la guerra. Le vacanze al forte erano ancora lontane, troppo per rappresentare una soluzione. Con una decisione senza precedenti, Lello consentì allora ai figli ben 2 giorni di assenza volontaria da scuola, perché lo accompagnassero nel viaggio di ispezione che doveva fare nell'agro romano. Cambiare aria e ambiente, disse ad Alfonsa perplessa per l'infrazione, non poteva essere loro che di giovamento. L'interno dell'ambulatorio di Ostia era ancora tutto nuovo. Di fuori l'umidità e il sale già mordevano gli intonaci. Dentro il recinto il giardinetto veniva sustentato. La terra da poco conquistata non si lasciava soggiogare. L'infermiere, facendosi incontro a Lello, si tolse il berretto, poi gli strinse la mano con energia non servile, da pari a pari. I figli già lo salutavano. L'odore di mare che c'era nell'aria li trascinava via. «Su, su!» «Non mi fate perdere tempo!» Li liberò Lello affidandoli a Finimola. Uno scappellotto, un bacio, un sorriso e scomparve insieme all'uomo nell'ambulatorio. All'inizio restarono fermi a guardare le onde, impacciati dagli abiti pesanti. Qualche sasso nell'acqua, manciate di sabbia. Poi il sole si affacciò, malgrado l'inverno, bei raggi dritti che scaldavano. Liberi dai soprabiti e scarpe, scorazzarono come d'estate. La tramontana facilitava il tiraggio dei vulcani e aguzzava l'appetito. Fecero una prima merenda, poi ne chiesero anche un'altra. Fiera dei colori che andavano ridisegnandosi sulle loro guance, la serva imburrava fette larghe di pane, una dopo l'altra, e con lo zucchero sopra. Corse, scherzi, giochi, a nascondersi, ad acchiapparella. Anche Enrico, come un bambino, per l'ultima volta. C'era un baracchino che fungeva da osteria. Il padrone aveva preparato selvaggina cacciata di frodo nelle terre del principe. I ragazzi a quei sapori forti non erano abituati, ma mangiarono senza fiatare. per buon appetito e per la massima inderogabile inculcata da Alfonsa, quel che viene in tavola si mangia. L'infermiera aveva portato un suo vino, ma Finimola gli mise fretta. D'inverno il buio cala presto e bisognava andare a prendere Lello, fuori del borgo, nell'agro. «Alla conquista del Monpracem!» esclamò baldanzoso Enzo, quando l'infermiere spronò l'asino e il carretto si mosse. E davvero sembrò loro la Malesia della fantasia, il villaggio di capanne e fango. Il carretto si fermò, Lello li invitò a scendere, ma la curiosità era frenata dal timore, dallo stupore per il paesaggio che si trovavano di fronte. Laghi paludosi, fossati di acque morte, l'odore forte delle marcite, la nebbia malsana che rendeva incerto ogni segno, ogni limite, come nelle illustrazioni del libro sulla preistoria che tutti loro avevano letto come un romanzo. Mancavano i dinosauri, questo sì, ma sul momento non ne furono ben certi e il carrettiere raccontava comunque di cinghiali smisurati e bufali. Solo quando dalle capanne cominciarono a venir fuori donne e bambini, Enrico si decise a scendere e gli altri lo seguirono, prima tutti uniti dal timore e poi via via sparpagliandosi. Indaffarato a distribuire dosi di chinino, a informarsi di ricadute e decessi, Lello, al quale ora l'idea che aveva avuto di portare i figli con sé non sembrava più così buona, li affidò ancora a Finimola con un'occhiata seria che imponeva di non allontanarsi. Di nuovo la serva fece ricorso al cibo, chiamò accanto a sé i suoi e poi anche altri bambini, curiosi del pane bianco e del burro. Quando anche l'ultima briciola fu scomparsa, li sguinzagliò in cerca di rami e frasche per il fuoco. Mimmo, assorto, guarda il falò fumoso che illumina lo spiazzo e gli sembra che nessun calore possa bastare a vincere quella miseria e quell'umidità. Il sole che rapidamente va calando un disco giallo nella nebbia gli fa presagire altre paure. Se non avesse tanto timore di mostrarsi piccolo e vile, cercherebbe le braccia di Finimola. Torno al piazzale, nella nebbia appaiono luci oscillanti. Fuochi fatui, pensa Mimmo agghiacciato. E gli sembrano spettri gli uomini che si avvicinano e cantano su di un ritmo estraneo e minaccioso, volta, rivolta e torna a rivoltar. Siamo gli scariolanti che vanno a lavorare. Tornando verso casa, fra le braccia di Finimola che lo riparavano dal buio, quella canzone ancora gli rimbombava nella testa e non riuscì a dormire. Quando Xeniushka ebbe la prima mestruazione, sua madre era altrove, all'estero. Aveva detto a Zurigo, ma chissà, i suoi viaggi erano sempre avvolti in quel velo di mistero. E sempre le stesse parole, illegalità, arresti, perquisizioni, riempivano al ritorno i suoi racconti, che Xeniushka cercava quanto possibile di ignorare. Certo, sua madre le aveva detto tutto, l'aveva preparata, le aveva spiegato anatomia e fisiologia. Ma di fronte al sangue, Xeniushka si sentì sola e sporca. Ebbe paura e ribrezzo e tutte le istruzioni non le servivano a sapere cosa fare, come comportarsi, come sentirsi. Yakov e gli altri a cena si accorsero del suo pallore, si preoccuparono per lei, cercarono a modo loro di confortarla. Vergognosa del segreto di quelle macchie, insofferente delle loro barbe e del loro accento yiddish, Xeniushka scappò via. Cercò l'odore di sua madre nel cuscino e pianse, per solitudine e poi soprattutto per rifiuto di quella vita senza bellezze di quella parola insopportabile, rivoluzione, che cancellava ancora e ogni volta qualsiasi possibilità di essere come gli altri, di avere le cose che gli altri hanno, di vivere la loro vita anonima e tranquilla. Il sacrificio di sé. E in cambio di cosa? Parole astratte e lontane come socialismo, emancipazione, sionismo. L'intelligenza e la cultura, il fascino e l'eleganza a Xenia, così pensava sua figlia, servivano soltanto per soffrire, per penare la vita e farla penare a lei. Sul cuscino intriso di lacrime, contro sua madre e tutto il mondo che le stava intorno, Xeniuska tentò di schierarsi su un altro fronte, risoluta ad essere tutto il contrario di lei, della compagna Irina, come insisteva a farsi chiamare, stabilì che mai si sarebbe occupata di politica. E per guadagnarsi il principe azzurro, di cui sentiva l'assoluta necessità, decise di sé che sarebbe stata bella, gentile, disponibile e stupida. Prima di partire la fotografia. La famiglia riunita sul terrazzo di via Cavour. Di Enrico la divisa sottolinea il viso da bambino, giovane com'è più dei ragazzi del 99. E sembra uniforme da convitto e i gradi sulle spalline solo per giocare. Perché l'idea di guerra che ha negli occhi è soltanto di avventura. Anche Lello è in uniforme, ma l'abito, il cappello lascia sfuggire capelli tutti bianchi, anziché assomigliarli, stacca le generazioni irreparabilmente. Volontario anche lui, sa che gli orrori che ha sotto gli occhi ogni giorno all'ospedale militare sono non più che il riflesso attutito di ciò che, al fronte, suo figlio incontrerà. Ma bisogna andare, perché ciascuno ha diritto alla propria scelta, perché combattere è giusto e perché questa guerra li consacrerà definitivamente uguali, italiani e non più ebrei. Le lettere di Enrico arrivavano dal fronte nere di timbri. Lello le leggeva ad alta voce, quando la famiglia era riunita attorno al tavolo per il desinare. Anche le donne ascoltavano in piedi, con le braccia conserte. Finimola, che aveva i nervi più scoperti, se ne scappava poi in cucina a piangere. Alfonsa appariva serena, ascoltava senza fremiti visibili. Un pudore, un controllo di sé così estremo da potersi scambiare per freddezza. Suo figlio cambiava e cresceva e affrontava la vita lontano. La forza di Alfonsa non poteva ripararlo dal disagio, dalla sofferenza, dal tonfo delle illusioni che cadevano una ad una. 4 novembre 1918. Il nostro popolo è il più grande che si possa immaginare. Voi non potete credere che intensa commozione provochi il vedere questi saldi e tenaci contadini, appena rivenuti alle case distrutte, rimettersi all'opera senza un lamento, senza uno scoraggiamento. Vengono, cercano, girano un po', osservano e poi silenziosamente ricominciano l'opera industriosa e tenace. Già molte cose riassumono l'aspetto borghese e ieri vidi un vecchio che conduceva l'aratro per un campo e avanti era un bimbo che scostava il filo spinato. È una cosa meravigliosa. Siamo grandi. 17 novembre 1918. Verso mezzogiorno circa a Fossalta, in un prato immenso digradato verso una buca centrale come un anfiteatro, una cosa tremenda. 50.000, 100.000 prigionieri liberati. Una massa enorme, immensa, multicolore, multivestita, sparuta, tragica, era seduta tutta intorno e si agitava come un brulichio di cosa verminosa. E dalle 100.000 bocche usciva a tratti, quasi per un accordo impreveduto, un grido: «Acqua! Acqua!». A un margine del prato era un canicolo di irrigazione e a fila si precipitavano faccia a terra, con tutta la faccia nell'acqua fangosa, bevendo a larghe boccate avidamente, incalzati dagli altri e non volevano più staccarsi. La guerra era finita, ma Enrico restò in servizio e poi in ospedale, per l'epidemia di spagnola che mieteva vittime come in trincea. «Siamo nati per soffrire», diceva per ritrovare il linguaggio dei suoi, e le suore la scambiavano per cristiana rassegnazione. Quando tornò a casa, cercò conferme e rassicurazioni. Verificò puntigliosamente che niente in sua assenza fosse cambiato. Quando ne fu ben certo, la distanza che lo separava da loro gli venne addosso e fu solo. Coloring all of my flesh. Quiet.